Gracule. In agosto faceva così caldo che Laura e Mary andavano a fare la loro passeggiata il mattino presto. A quell'ora l'aria manteneva ancora un po' della frescura notturna ed era gradevole stare all'aperto. Ma a loro ogni volta sembrava un po' come fosse l'ultima passeggiata insieme, perché a breve Mary se ne sarebbe andata di casa. Era successo davvero. In autunno Mary sarebbe andata all'università per ciechi. Era una cosa che avevano desiderato e in cui avevano sperato così tanto che quasi sembrava impossibile fosse diventata realtà. Era difficile anche immaginarla, perché nessuna di loro sapeva come fosse l'università, non ne avevano mai vista una. Ma quella primavera papà aveva guadagnato quasi 100 dollari. L'orto, l'avena e il gran turco crescevano a meraviglia e dunque i soldi per la retta c'erano. Una mattina, tornando dalla passeggiata, Laura vide delle erbe attaccate alla gonna di Mary. Cercò di toglierle, ma non venivano via. Ma, chiamò, vieni a vedere che strana quest'erba. Neppure mamma l'aveva mai vista. Era un'erba con delle reste in cima, simili a quelle dell'avena, a parte il fatto che erano ritorte. In fondo c'era un baccello grande come un'unghia, che terminava con una punta dura e sottile, aguzza come un ago e ricoperta di setole rigide disposte al contrario. Come aghi veri, le punte si erano infilate nell'abito di Mary. Le setole penetravano nella stoffa facilmente, seguendo la punta dell'ago, ma impedivano di estrarla, e la lunga resta attorcigliata a vite spingeva l'ago sempre più in dentro. «Ai! Cos'è che mi appunto?» esclamò Mary a un tratto. Appena sopra il bordo della scarpa, una di quelle strane erbe le aveva passato la calza e le pungeva la pelle. «Oh, questa è proprio una stranezza», disse mamma. «Che altro vedremo in questi campi?» Quando papà tornò a casa per pranzo, gli mostrarono la strana erba. Disse che si chiamava forbicina pelosa. Se si infilava nella lingua o nelle labbra di mucche e cavalli, bisognava toglierla facendo un piccolo taglio, perché da sola non veniva via, e se penetrava nel vello delle pecore poteva entrare nel corpo, arrivando addirittura a ucciderle. Dove l'avete trovata, ragazze? Laura non seppe rispondere. Papà se ne rallegrò. Se non l'avete notata, vuol dire che non ce n'è molta. Cresce a chiazze. E poi si spande. Dove siete andate a passeggio? Laura indicò il percorso con precisione. Papà disse che ci avrebbe pensato lui. Dicono che la si elimina bruciandola quando è ancora verde. Lo farò subito, così intanto si distruggono quanti più semi possibile, e l'anno prossimo ci starò attenta e le darò fuoco prima che fiorisca e metta i semi. Per pranzo c'erano patatine novelle stufate con piselli freschi e insalata di fagiolini e cipollotti. Ognuno aveva anche un piattino di pomodori affettati da mangiare con panna e zucchero. Che buone cose e che abbondanza, disse papà prendendo una seconda porzione di patate e piselli. Eh sì, disse mamma, mangiamo a volontà oggi, andrà a compensare la fame dell'inverno scorso. Era fierissima del suo orto, tutto cresceva così bene. Domani comincio a mettere in salamoia i cetriolini, ce ne sono in quantità sotto tutte quelle foglie. E anche le piante di patate vengono su bene, non si vedono nemmeno le montagnole sotto le foglie, per sapere dove andare a cercarle. Se non succede niente, avremo un bel po' di patate quest'inverno, disse papà tutto contento. E tra non molto ci saranno le pannocchie da arrostire, annunciò mamma. Stamani ho visto che le barbe del Gran Turco cominciano a diventare scure. E poi c'è il mais. Il raccolto promette davvero bene, disse papà. Se non altro avremo quello per tirare avanti. E l'avena? Aggiunse mamma. E poi subito, Chas, che cos'ha l'avena? C'è qualcosa che non va? Se la stanno mangiando tutte le gracule, disse papà. Non faccio a tempo a fare una bica che ci arriva sopra un nugolo di quegli uccellacci. Si mangiano tutti i grani e anche un po' di paglia. Il sorriso di mamma si spense, ma papà disse: Non preoccuparti, paglia ne resta parecchia, e appena finisco di tagliare l'avena e di fare le biche, le faccio fuori a fucilate quelle bestiacce. Quel pomeriggio, alzando gli occhi dal cucito per infilare un ago, Laura vide dalla finestra un filo di fumo levarsi nell'aria calda della prateria. Papà aveva trovato la macchia di forbicina pelosa e le aveva dato fuoco. La prateria è così bella, così dolce, disse. Ma chissà cosa ci combinerà ancora. Sembra che si debba sempre stare a lottarci contro. La vita in questo mondo è una battaglia, disse mamma. Se non è una cosa è l'altra, c'è sempre da combattere. È sempre stato così. E sarà sempre così. Prima te ne fai una ragione, meglio stai. E più riconoscente ti senti per quello che hai di bello. Vieni, Mary, c'è da provare il corpino. Stavano facendo un vestito nuovo per Mary, da portare all'università quell'inverno. Nella stanza calda, col sole che picchiava sulle tavole sottili del tetto e delle pareti, il tessuto di morbido cashmere sembrava fin troppo caldo. Mamma era un po' in ansia perché quello doveva essere il vestito bello di Mary e non voleva sbagliare nulla. Prima aveva fatto i vestiti da tutti i giorni per impratichirsi. Le diverse parti del modello le aveva ritagliate da un foglio di giornale, dopo averle sagomate, usando il suo cartone da sartoria, su cui erano segnate tutte le misure per le diverse taglie. Il problema era che quelle taglie non erano mai perfette per nessuno. Mamma aveva preso le misure a Mary e una volta decisa la taglia aveva ritagliato dal giornale i pezzi delle maniche, della gonna e del corpino. Poi, usando i modelli di carta, aveva tagliato la stoffa e imbastito la fodera, ma quando Mary l'aveva provata c'erano stati da fare parecchi ritocchi lungo le cuciture. Laura non si era mai resa conto che a mamma non piaceva cucire. Non che le si leggesse in faccia. Il viso sereno non mostrava traccia di insofferenza, né la voce suonava esasperata, ma guardandola si vedeva attorno alla bocca, serrata, stretta, tutta la buona volontà e la pazienza che ci stava mettendo. Soltanto da quell'espressione Laura aveva capito che mamma odiava cucire quanto lei. Erano preoccupate anche perché, quando erano andate a comperare la stoffa, la signora White aveva detto di aver sentito dalla sorella, che abitava in Iowa, che a New York stava tornando di moda la crinolina. Cerchi per la crinolina in paese non se ne trovavano, anche se il signor Clancy aveva detto che pensava di ordinarne qualcuno. Non so proprio cosa fare, aveva detto mamma. L'anno prima la signora Bost aveva il Goddess Ladies Book, una rivista di moda. Se avessi avuto il numero di quell'anno avrebbe risolto il dubbio, ma papà doveva tagliare l'avena e fare il fieno e la domenica erano tutti troppo stanchi per andare con quel caldo fino alla concessione dei Bost, che era molto lontana. Quando finalmente papà incontrò il signor Bost in paese una domenica, seppero che quell'anno la rivista non era arrivata. Beh, faremo la gonna abbastanza larga in modo che se torna di moda la crinolina, Mary potrà comprarne una in Iowa e portarla sotto il vestito. Nel frattempo saranno le sottovesti a tenere la gonna allargata, disse mamma. Avevano fatto quattro sottovesti nuove per Mary, due di mussola sbiancata, una di mussola grezza e una di fine batista bianca. In fondo all'orlo di quella di batista, Laura aveva cucito con piccoli punti invisibili il merletto lavorato ai ferri che aveva regalato a Mary a Natale. Avevano fatto anche due sottovesti di flanella grigia e tre completi di biancheria di flanella rossa. Laura aveva cucito gli orli delle sottovesti a punto incrociato con un bel filo rosso. Stava bene sulla flanella grigia. Le cuciture delle sottovesti e della biancheria le aveva fatte tutte a punti sovrapposti e attorno al collo e ai polsi delle maglie di flanella aveva aggiunto un giro di punti incrociati col filo azzurro. Stava usando i bei fili da ricamo che avevano trovato nel barile di Natale. Nessun'altra ragazza all'università avrebbe avuto biancheria così graziosa. Quando mamma ebbe rifinito tutte le cuciture degli abiti di Mary a punti sovrapposti e le ebbe appiattite bene col ferro, Laura cucì le stecche di balena in corrispondenza delle cuciture del corpino. Era un lavoro delicato, bisognava inserirle con cura perché risultassero all'altezza giusta e non si vedesse la minima grinza nella stoffa, in modo che il corpino, una volta indossato, fosse della giusta misura e apparisse perfettamente liscio all'esterno. Ci mise tanta attenzione che alla fine aveva il collo e le spalle doloranti. Adesso il corpino del più bell'abito di Mary era pronto da provare. Per l'ultima volta. Era di tessuto di cashmere color castagna con la fodera di batista bianca. Si allacciava sul davanti con una fila di bottoncini marroni e ai due lati della fila e tutt'attorno al bordo inferiore, mamma lo aveva impreziosito con un sottile nastro increspato a disegno scozzese, marrone e azzurro, con fili rossi e oro. L'abito aveva il colletto alto dello stesso scozzese e mamma aveva in mano una lunghezza di pizzo bianco fatto a macchina. da applicare all'interno del colletto in modo che una parte ricadesse a cascata sul davanti dell'abito. Mary è magnifico! Dietro non fa una grinza e anche sulle spalle è perfetto, disse Laura. Le maniche sono belle strette fino al gomito. È che, disse Mary, non so se riesco ad abbottonarlo. Laura passò sul davanti. Non respirare, Mary. Butta fuori il fiato e riprova, disse preoccupata. È troppo stretto, esclamò Mary disperata. Alcuni bottoni tiravano le asole, altri non si abbottonavano proprio. Non respirare, Mary, aspetta, disse Laura, sbottonandole in fretta e furia i bottoni che tiravano troppo. Ecco, adesso respira pure. Ora che il corpino dell'abito era sbottonato, Mary riprese a respirare normalmente. Ma come ho potuto sbagliare così? Esclamò mamma. Il corpino andava bene quando l'abbiamo provato la settimana scorsa. A Laura venne un'idea. Deve essere il bustino, esclamò. Devono essersi allentate le stringhe. Era così. Mary trattenne di nuovo il fiato e quando Laura le ebbe tirato bene le stringhe del corsetto, l'abito si abbottonò. Le stava alla perfezione. Meno male che io il corsetto non lo devo mettere, disse Carrie. Ah, goditela finché puoi, le rispose Laura. Tra non molto toccherà anche a te. A lei il corsetto dava un gran fastidio, dal momento in cui lo infilava al mattino fino a quando lo toglieva la sera. Ma quando una ragazza aveva l'età per legarsi le trecce sulla testa e portare le gonne alle caviglie, il corsetto diventava obbligatorio. Bisognerebbe portarlo anche di notte, il corsetto, disse mamma. Mary lo faceva, ma Laura di notte non sopportava di avere il busto compresso e di non poter respirare liberamente, e prima di andare a dormire se lo toglieva sempre. Ti rovinerai la figura, le disse mamma. Quando mi sono sposata, tuo padre riusciva ad abbracciarmi la vita con le due mani. Beh, adesso non è più così, rispose Laura, eppure gli piaci lo stesso. Laura, esclamò Mary, non essere impertinente. Ma mamma era arrossita e non aveva potuto nascondere un sorriso. Stava sistemando il pizzo bianco all'interno del colletto, fissandolo con gli spilli, in modo che ricadesse ben arricciato sul davanti. Fecero tutte un passo indietro per ammirare Mary. La gonna tagliata a godè cadeva liscia e diritta sul davanti, ma ampia ai lati e dietro. In quel modo vi si poteva aggiungere eventualmente la crinolina. Davanti arrivava giusto giusto al pavimento, dietro formava un breve strascico che ruotava con grazia quando Mary si girava. Tutto intorno al bordo inferiore c'era una balza a piegoline. La sopragonna era di tessuto scozzese, marrone e azzurro. Increspata sul davanti, drappeggiata di lato in modo da lasciar vedere la gonna sottostante e raccolta dietro in ricche pieghe che ricadevano con eleganza sulle balze dello strascico. Sopra la ricchezza della gonna svettava l'esile vitino di Mary, stretto nel corpino, con la fila di bottoni che saliva fino alla cascata di morbido pizzo sotto il mento. Le maniche scendevano attillate fino ai gomiti, poi si allargavano, bordate ai polsi dal nastro scozzese increspato. Sotto si vedeva l'interno del polsino, tutto pieghe di morbido pizzo, da cui uscivano le lunghe mani eleganti di Mary. Com'era bella con quell'abito! I capelli erano più morbidi e dorati dei fili di seta d'oro del nastro scozzese, gli occhi di un azzurro più intenso di quello della stoffa e le guance rosate. Tutta la figura emanava grazia ed eleganza. Oh, Mary, disse Laura, sembri uscita da un giornale di moda. Non ci sarà, non può esserci una sola ragazza in tutta l'università degna di starti a fianco. Ho davvero un aspetto così elegante, ma? Chiese Mary arrossendo. Per una volta mamma non la mise in guardia contro la vanità. Sì, Mary, non sei solo elegante, sei molto bella. Ovunque tu vada sarai un piacere per gli occhi di chi ti vede, e lo dico con riconoscenza. Puoi stare tranquilla che i tuoi abiti non ti faranno sfigurare in nessuna occasione. Ma non potevano stare lì ad ammirarla all'infinito. Mary rischiava di svenire dal caldo nell'abito di cashmere. Lo riposero con cura. Finalmente era finito ed era venuto benissimo. Mamma doveva farle ancora una cuffia di velluto per l'inverno e qualche paio di calze, e Laura le stava già facendo a maglia un paio di guanti a muffola di filo di seta color castagna. Li finirò nei ritagli di tempo, disse. Sono contenta che tutto il resto sia pronto perché ora devo aiutare papà a fare il fieno. Le piaceva stare nei campi al sole e al vento e poi dentro di sé sperava di poter togliere il corsetto quando lavorava fuori. Sì, magari puoi dargli una mano a caricare il fieno sul carro, disse mamma con qualche riluttanza, ma i covoni li farà in paese. Oh no, non ci trasferiremo di nuovo in paese quest'inverno, gridò Laura. Modera la voce, Laura, disse mamma con dolcezza. Ricordati cosa dice Relier. Ha sempre avuto una voce piana, dolce e gentile, ottima cosa in una donna. Dobbiamo tornare in paese quest'inverno, mormorò Laura. Tuo padre e io abbiamo deciso che non possiamo restare qui durante l'inverno finché questa baracca non diventa una casa più solida e impermeabile, disse mamma. Lo sai anche tu che non saremo sopravvissuti qui l'inverno scorso. Ma il prossimo non sarà come quello passato, disse Laura. Non bisogna tentare la provvidenza, rispose mamma con fermezza. Laura capì che la cosa era decisa. Sarebbero tornati ad abitare in paese durante l'inverno e lei doveva farsene una ragione. Quella sera, mentre le gracule volteggiavano allegramente sopra il campo di avena, nell'aria serena del tramonto, papà prese il fucile e uccise tutte quelle che riuscì a colpire. Non che si divertisse. E anche a loro in casa quegli spari misero tristezza, ma sapevano che erano necessari. Papà doveva proteggere il raccolto. I cavalli, Ellen e i vitelli sarebbero vissuti col fieno quell'inverno. L'avena e il mais andavano venduti. Papà aveva bisogno di quei soldi per pagare le tasse e comprare il carbone. L'indomani mattina, non appena il sole ebbe asciugato la rugiada, papà cominciò a tagliare l'erba per fare il fieno. In casa, mamma si era messa a cucire la cuffia di velluto per Mary e Laura lavorava fitto fitto ai ferri per finire almeno uno dei guanti. Alle 11 mamma esclamò: Santo cielo, è ora di pensare al pranzo. Laura, vai a vedere se trovi qualche pannocchia da bollire. Il mais era più alto di Laura ormai, una lussureggiante distesa di fusti fitti di foglie fruscianti che ondeggiavano lievi nel vento. Ma come si addentrò tra le file, Laura vide levarsi dal campo uno stormo di uccelli neri. Erano così tanti che il rumore delle ali coprì il fruscio del vento e un'ombra passò veloce, come fosse una nuvola in corsa. Poi lo stormo si posò di nuovo. Pannocchie ce n'erano tantissime. Ogni stelo ne aveva almeno due, spesso addirittura tre. I pennacchi in cima alle piante erano secchi ormai. C'era solo un po' di polline che volava ancora. I cartocci erano ancora verdi, ognuno con le sue barbe in cima, come ciuffi di capelli verdastri, ma qui e là qualche barba stava diventando marrone e nel cartoccio si sentiva a toccarlo che la pannocchia era già bella grossa. Per essere sicura, prima di staccarlo dallo stelo, Laura lo apriva un po' per vedere che le file di chicchi sotto fossero ben gonfie e mature. Le gracule continuavano a svolazzare lì attorno. A un tratto Laura capì che gli uccellacci si stavano mangiando anche il mais. Qua e là si vedevano pannocchie con l'involucro strappato. I chicchi erano scomparsi, restava solo il torsolo nudo. Mentre se ne stava lì ferma a guardarsi intorno sgomenta, vide alcune gracule posarsi poco distante. Aggrappate alle pannocchie con gli artigli, strappavano via l'involucro col becco robusto e a uno tiravano via i chicchi e se li mangiavano. Muta, disperata, Laura corse a cacciarle via. Le sembrava addirittura di gridare, tanto era lo sgomento. Si era tolta la cuffia per agitarle in aria, ma le gracule si levavano un attimo, volavano un po' più in là e si posavano di nuovo, davanti a lei, dietro, tutti intorno. Ce n'erano dappertutto, erano tantissime, troppe perché lei potesse fare qualcosa. Raccolse qualche pannocchia nel grembiule e corse a casa. Aveva il cuore in gola e le gambe che tremavano. Le gracule si stanno mangiando il mais, disse a mamma. Non sarà meglio che avverta papà? Ah, capita sempre che gli uccelli si mangino un po' di chicchi, rispose mamma. Non c'è da preoccuparsi tanto. Comunque vai pure e portagli un po' di acqua fresca. Papà era nel campo di avena. Neppure lui parve molto preoccupato. Disse che da lì le avevano sloggiate, ne aveva uccise un centinaio, forse più. Qualche danno al mais è inevitabile, non possiamo farci nulla. Ma sono tantissime, disse Laura. E se perdi il raccolto, Mary potrà andare all'università lo stesso? Papà si fece serio. Secondo te è così grave? Sono tantissime, ripeté Laura. Papà dette un'occhiata al sole. Beh, un'ora più o un'ora meno non farà differenza. Vado a dare un'occhiata all'ora di pranzo. A mezzogiorno prese il fucile e andò nel campo di mais. Passava tra le file e sparava in mezzo allo stormo. Ogni colpo uccideva diversi uccelli, ma la nuvola nera tornava a posarsi poco più in là. Finì tutte le cartucce, ma gli uccelli non parvero diminuiti. Non c'era una sola gracula in tutto il campo di avena. Da lì se n'erano andate, ma avevano mangiato tutti i chicchi, restava solo la paglia. Mamma disse che se ci si mettevano tutte, forse riuscivano a scacciare le gracule dal mais. Ci provarono. Perfino Grace si era messa a correre tra le file, strillando con quanto fiato aveva in corpo e agitando la sua cuffietta. Ma gli uccelli si levavano un attimo, facevano un giro in aria e tornavano a posarsi sulle pannocchie, strappando via le foglie e beccando i chicchi. Ti distruggi, Caroline, ma non serve, disse papà. Vado a comprare altre cartucce. Quando fu uscito, mamma disse, vediamo se riusciamo a tenerli alla larga, almeno finché torna papà. Si misero di nuovo a correre su e giù per il campo nella calura del primo pomeriggio, inciampando nelle zolle, urlando e agitando le braccia. Il sudore colava sulla faccia e lungo la schiena. Le foglie taglienti ferivano le mani e le guance. A furia di urlare, avevano tutte la gola secca e dolorante, ma le gracule si levavano, facevano un giro e tornavano a posarsi. Ce n'erano sempre decine e decine aggrappate alle pannocchie a beccare furiosamente. Alla fine mamma si fermò. Non serve, ragazze, non c'è niente da fare. Tornò papà con le cartucce e per tutto il pomeriggio non fece che sparare. Le gracule erano così fitte che ogni rosa di pallini ne tirava giù più di una, eppure sembravano sempre più numerose. Pareva che tutti gli uccelli del Dakota fossero venuti a banchettare in quel campo. All'inizio c'erano solo gracule, col piumaggio tutto nero, poi arrivarono altri uccelli che avevano la testa gialla e altri ancora con una macchia rossa sulle ali. Erano centinaia! L'indomani mattina, da casa, videro gli uccelli levarsi in volo e tornare a posarsi nel campo e di nuovo alzarsi e scendere. Dopo colazione, papà tornò, portando un gran numero di uccelli morti. Non so se qualcuno abbia mai mangiato questi uccelli, disse, ma sembrano polposi e belli grassi. Spennali e puliscili, Laura, e a pranzo proviamo a cucinarli, disse mamma. Ogni male deve pur portare un poco di bene. Laura preparò gli uccelli e mamma li mise uno accanto all'altro in una teglia. Non ci fu bisogno di aggiungere il condimento perché bastò il loro grasso. A tavola furono tutti d'accordo che erano ottimi, teneri e delicati come nessun altro tipo di selvaggina. Dopo pranzo, papà portò un'altra bracciata di uccelli e un cesto di pannocchie. Il raccolto possiamo darlo per perso, disse. Le pannocchie sono ancora un po' verdi, ma tanto vale mangiare quello che c'è prima che quegli uccellacci lo facciano sparire tutto. Ma perché non ci ho pensato prima? Esclamò mamma tutto a un tratto. Laura, Carrie, correte a raccogliere tutte le pannocchie che vi sembrano pronte da far seccare. Se riusciamo a mettere via un po' di mais, almeno ce lo mangeremo quest'inverno. Laura sapeva perché mamma non ci aveva pensato prima. Era troppo amareggiata. Il raccolto era perduto. Papà avrebbe dovuto attingere ai suoi risparmi per pagare le tasse e comprare il carbone. E come avrebbe fatto allora a mandare Mary all'università? Gli uccelli erano così tanti ora che le ali le urtavano contro le braccia e la cuffia mentre passava tra le file di piante. Poi cominciò a sentire dei colpi sulla testa. Carrie gridò che le gracule la stavano attaccando. Era come se ritenessero il campo di loro proprietà e fossero pronte a combattere per tenerselo. Si alzavano proprio davanti alla faccia di Laura e di Carrie, poi cercavano di beccarle sulla testa, strepitando. Mais ne era rimasto poco. Erano tutte becchettate anche le pannocchie più acerbe, dove i chicchi erano poco più che bollicine vuote. Ma loro due riuscirono a raccogliere parecchie grembiulate di pannocchie mangiate solo a metà. Quando andò a cercare gli uccelli uccisi da papà per prepararli per cena, Laura non li trovò. Mamma non volle dire che ne aveva fatto. Aspetta e vedrai, disse con aria di mistero. Intanto facciamo bollire le pannocchie e stacchiamo i grani per metterli a seccare. C'è un trucco per staccare i chicchi dalla pannocchia. Bisogna affettarla per il lungo, badando che la lama passi quasi alla radice dei chicchi, ma senza intaccare i bordi della nicchia in cui. Ognuno di essi è alloggiato. In quel modo i chicchi si staccano a fette e cadono nel piatto, umidi e succosi. Poi mamma li stese al sole su un telo pulito e li coprì con un altro telo perché uccelli, galline e mosche non li toccassero. Così sarebbero seccati ed inverno, facendoli rinvenire nell'acqua prima di cucinarli, avrebbero potuto usarli per preparare diverse pietanze. È così che fanno gli indiani, disse papà. Devi riconoscere, Caroline, che si può dire qualcosa di buono anche degli indiani. Beh, se è vero, disse mamma, l'hai già detto e ridetto tu e non c'è più bisogno che lo dica io. Mamma odiava gli indiani, ma ora era tutta raggiante per qualche motivo che sapeva lei sola. Laura capì che doveva avere a che fare con gli uccelli spariti. Lavati e siediti a tavola, Charles, disse mamma. Aprì lo sportello del forno e tirò fuori la teglia che usavano per scremare il latte. Era coperta da una spessa crosta di pasta appena colorita dal calore. Dentro doveva esserci un qualche ripieno. Quando gliela mise davanti, papà esclamò sbalordito: Caspita, pasticcio di pollo! Una canzone da due soldini, cominciò mamma. La conoscevano tutte quella filastrocca. Laura prese a recitarla a voce alta e subito Mary, Carrie e perfino Grace si unirono in coro. È una crosta fatta di pane, dentro ci sono 24 uccellini, cotti a puntino se avete fame. Quando il pane venne tagliato, gli uccelli presero a cantare. Ma che pasticcio prelibato hai saputo cucinare? Chi l'avrebbe mai pensato? Esclamò papà. Tagliò via un pezzo di crosta con un grosso cucchiaio e lo rovesciò su un piatto. La parte di sotto era morbida e fumante. Sul pane versò qualche cucchiaiata di denso sugo scuro e ci pose accanto mezzo uccello stufato, così tenero che la carne si staccava da sola dalle ossa. Il primo piatto lo porse a mamma. Il profumo del pasticcio fece venire l'acquolina in bocca a tutte loro, che se ne stettero lì a inghiottire saliva in attesa che papà riempisse gli altri piatti. Sotto il tavolo la gattina si strusciava contro le loro gambe, facendo le fuse e mandando di tanto in tanto un miagolio supplichevole. C'erano 12 uccelli nella teglia, disse mamma. Vuol dire due per uno, ma dato che Grace non può certo mangiarne più di uno, tu puoi prenderne tre, Charles. Solo tu puoi fare un pasticcio di pollo un anno prima di avere il pollo da metterci dentro, disse papà. Ne assaggiò un boccone, ma questo è molto più buono di un qualunque pasticcio di pollo, non c'è paragone. Tutte convennero che il pasticcio di Gracula era molto meglio del pasticcio di pollo. Da mangiarci insieme c'erano patate novelle e piselli, cetrioli affettati e carotine bollite, che mamma aveva raccolto nell'orto per diradare le file. C'era anche un piatto di formaggio fresco e non era neppure domenica. Finché duravano gli uccelli e l'orto era verde, potevano mangiare così tutti i giorni. Mamma ha ragione, pensava Laura tra sé, c'è sempre qualcosa per cui essere grati. Ma aveva lo stesso il cuore pesante. Il raccolto di mais e di avena se n'era andato. Come si poteva mandare Mary all'università? Il bell'abito di cashmere, gli altri due vestiti e tutta la biancheria nuova sarebbero rimasti lì inutilizzati fino all'anno successivo. E che delusione per Mary! Papà raccolse col cucchiaio le ultime gocce di succo zuccherato e cremoso dei pomodori e finì la tazza di tè. Si alzò da tavola, prese il cappello appeso al chiodo e disse a mamma: Domani è sabato, se vieni in paese con me, andiamo a cercare un baule per Mary. Mary aprì la bocca come per dire qualcosa, ma fu Laura a gridare: Allora ci va all'università! Papà la guardò stupito. Che ti prende, Laura? Ma come si fa? Disse Laura. Il mais non c'è più e nemmeno l'avena. Oh, dimentico sempre che ormai sei grande e ti preoccupi anche tu, disse papà. Vendo la vitella. Ora fu Mary a esclamare. No, la vitella no. Ancora un anno e la vitella sarebbe diventata una vacca adulta e con due vacche potevi avere latte e burro per tutto l'anno. Se invece papà la vendeva, dovevano aspettare ancora un anno intero prima che l'altra vitellina diventasse adulta. Venderla ci rimetterà in sesto, disse papà. $15 ce li ricavo tutti. Non preoccupatevi, ragazze, disse mamma. L'abito si taglia secondo la pezza che hai. Ma così sarà come aver sprecato un anno di lavoro, disse Mary abbacchiata. Non è grave, Mary, disse papà. È ora che tu vada all'università e la decisione è presa. Ci andrai e non sarà uno stormo di uccellacci a impedirlo.